Dio, perché ma sei barbarosa intensa? Verità chiede clemenza. Ma sto anche orgoglio. E morte voglio. Voglio, duce, oh Dio, pietà, pietà, pietà. Non è detto l'intimo. Questa è troppa crudeltà, questa è troppa crudeltà. Rigo!